Oggi la nuova resistenza in cosa consiste? Ecco l'appello ai giovani, di difendere queste posizioni che noi abbiamo conquistato, di difendere la Repubblica e la democrazia. E cioè, oggi ci vuole due qualità, a mio avviso, cara amica, l'onestà e il coraggio. L'onestà, l'onestà. E quindi l'appello che io faccio ai giovani è questo, di cercare di essere onesti. Prima di tutto, la politica deve essere fatta con le mani pulite. Non ci possono essere, se c'è qualche scandalo, bravo Sandro, se c'è qualcuno che dà scandalo, se c'è qualche uomo politico che approfitta della politica per fare i suoi sporchi interessi, deve essere denunciato senza Italian Podcast Network presenta Di tutto un podcast, idee ed opinioni del nostro mondo. Un programma ideato e condotto da Simone Pizzi e Michela De Paola. Carissimi amici della non notte, non funziona più, è una cosa proprio che non regge più, basta, bentornati amici, l'intro è importante, cioè, carissimi amici della notte, del giorno, basta, digitali o meno, basta. Bene, siamo tornati a Di Tutto un Podcast in questi giorni estivi dove piove fuori di noi e piove anche dentro di noi soprattutto, per tante ragioni. No, non è vero che piove dentro di noi, no, noi abbiamo un sacco di belle novità personali e non, però c'è sempre la malattia che ci accompagna. Sì, infatti sentite le nostre voci che come al solito non sono le migliori, perché mia moglie ha avuto la polmonite, me l'ha attaccata a me e poi uno dei due prima o poi morirà. Ma detto questo, siamo mancati. Ovviamente non sarà Simone Pizzi, tranquilli tutti, veramente, amici. Non sono io quello che muore. Non è scritto nel copione di J.J. Abrams. Assolutamente no. Come al solito dicevo, siamo tornati dopo tantissimo tempo. Non stiamo qui a spiegare, lo spieghiamo dopo, perché c'è un'intervista, c'è tutto un motivo per cui abbiamo fatto questa puntata. Questa è una puntata ricchissima di contenuti, quindi insomma non perdiamo tantissimo tempo. Ringraziamo tutti quelli, Michela, che ci hanno atteso con ansia e che hanno visto il nostro ritorno già facendo mi piace, poi non sanno se magari la puntata è bella o no. Sì, i nostri fedeli ascoltatori e anche i nuovi ascoltatori che piano piano si avvicineranno a questa stagione di Tutto un Podcast, che è stata un po' assente, però diciamo in un anno questa è la seconda torneremo. Puntata ce la faremo prima o poi, insomma, a tornare. Bene, dicevamo che abbiamo tantissime, poi dopo nelle prossime puntate, quando ricomincerà una stagione regolare di Tutto un Podcast, se si chiamerà Di Tutto un Podcast, quello che è, insomma, assolutamente noi torneremo, c'è questo episodio qui, poi c'è un prossimo episodio già praticamente pronto e poi ci rivedremo a settembre, dove ritorneremo insomma gagliardi e tosti come mai, e poi ci saranno delle puntate magari che non avremo tantissimo a raccontare, vi racconteremo quello che diceva prima Michela, ossia tutte le nostre novità. Quindi iniziamo con l'episodio, e dato che l'altro giorno Giuseppe Scaletta scriveva su Facebook: ma non ci sono più i podcast indipendenti con la musica indipendente? Noi ripartiamo con la musica, però prima di ripartire con la musica è meglio che rifreschiamo la memoria ai nostri ascoltatori. Ah, c'hai ragione, è vero. Gli diamo un po' di contatti. Allora, www.dituttounpodcast.wordpress.com, che a settembre cambierà. Ricordate, di tutto un podcast con la e se lo cambia mio marito io gli taglio le gambe. Cambia, perché diventerà un dominio di primo livello, cioè sparirà il wordpress.com. Basta che rimane la sempre, tanto oramai io ci ho provato mille volte a cambiare il nome del programma. E l'indirizzo email per scriverci è sempre di tutto un podcast @gmail.com, o come dicono gli ultra moderni, di tutto un podcast @gmail.com o .com, e di tutto un podcast è anche su Twitter con l'account di tutto un podcast, sempre noi siamo sempre quelli con la tranne che su Facebook, perché su Facebook siamo di tutto un podcast. Perfetto, non ci sono poi a Twitter, penso che non lo utilizziamo come ovviamente la trasmissione da in memore tempo. Però ci trovate sui nostri profili personali. Infatti sì, io sto cominciando a prendere dimestichezza con questo brutale social network, che non è un social network, questo strumento del demonio, e quindi praticamente, vabbè, insomma, piano piano anche di tutto un podcast probabilmente potrà tornare ai suoi vecchi fasti. Iniziamo con la musica. Allora, Michela, una acoustic version di un brano. Il brano è Isolated, da il gruppo In Isolation, acoustic version. Off the brain, spaced again, the dawning takes its toll. Screams amphetamine to me, paid to play a cocktail game. Morning breaks my fall, seems I'm getting hooked slowly. Kissing the drug to kill the pain, missing the girl that I blame. I've never felt so wasted, I've never felt so hated. Dropping a friend to ease the shame, I need the girl that dropped me. I've never felt so tainted, I've never felt so isolated. Acid test, my mind draws me new worlds. Seems uncannily familiar. Made to guess the second best. And I just tore her soul and unwittingly rebuilt her. Kissing the drug to kill the pain. Missing the girl that I blamed. Never felt so wasted, I've never felt so hated. Dropping a friend to ease the shame, I need the girl that dropped me. I've never felt so tainted, I've never felt so isolated. Somehow I can't admit, can't live without the hint. This will kill the pain, missing the girl that I blamed. I've never felt so wasted, I've never felt so hated. Dropping a friend to ease the shame, I need the girl that dropped me. I've never felt so tainted, I've never felt so jaded. Stole from the vaults of irony, I need the shark to jolt me. I've never felt so faceless, never felt so tasteless. Kissing the drug to kill the pain, I need the girl that loved me. I've never felt so wasted, I've never felt so isolated. Isolated. Una sensazione dopo fare tanti podcast, essere ritornato a fare questa mi fa di venire l'entusiasmo, la voglia di farla. È lei che non ne ha più di farlo, perché non dice, è vero. Quindi pubblico, se voi vi lamentate che di tutto un podcast non c'è più, è colpa sua. È mio marito che mi schiavizza, io per fargli fare i podcast mi lavora, devo portare... lei lavora, io faccio i podcast. Devo portare il peso di tutto il mondo addosso. Va bene. No, vabbè, a parte scherzi, io sono contentissima di essere tornata, mi dispiace veramente per questa lunga attesa, però spero che insomma riusciremo a recuperare quanto prima. Perfetto. Oh, scusate, ma mi è scrocchiata la mascella, probabilmente l'avete sentito. Comunque, questo episodio, che si chiama Diritto di Replica, vi ricorderete che lo scorso episodio, sia il primo episodio di questa stagione, che è stato l'unico episodio, abbiamo parlato di Chico Forti. Sì. Chico Forte, che praticamente è questo imprenditore documentarista italiano che è stato arrestato per omicidio e condannato negli Stati Uniti. Ora, giustamente questo episodio ha scatenato una marea di discussioni. Cioè, sono state molti. Che poi il bello che dopo tanto tempo che non tornava di tutto un podcast, torna con un episodio e nonostante tanti commenti come da tradizione. E ovviamente non tutti erano a favore della nostra posizione, e poi di questo magari ne parleremo. Quindi Michela ha giustamente pensato di puntare il dito su quello che è ovviamente il discorso opposto, ossia se la nostra tesi o la tesi di alcuni erano quelli che Chico Forte è innocente, c'è chi comunque ha obiettato in merito a questo. Sì, c'è chi ha avuto da ridire e ce l'ha fatto sapere sul nostro sito, nell'area dei commenti, e chi praticamente è fermamente convinto che Chico Forti non sia così innocente come tutti professano. Allora, noi non ci siamo messi né da una parte né dall'altra, però abbiamo voluto sentire tutte le campane, quindi abbiamo intervistato il dottor Claudio Giusti, che di questo diciamo di questo argomento se ne è occupato in modo molto molto molto diciamo che era una sorta di paladino, sì, della colpevolezza di Forte. Sì, sì, sì, poi sì. Lui spiega anche durante l'intervista il perché. Sì. Però ecco, poi dopo magari dopo commenteremo anche l'intervista, però scusa, t'ho interrotto, vai. No, non c'era nient'altro da dire, insomma, si è creato questo dibattito, ci ha fatto capire che comunque era necessario sentire anche l'altra campana, perché insomma qui siamo di tutto un podcast, non siamo mica pizza e fichi. No, ma al di là di quello, poi tra l'altro appunto l'intervista non è un avvocato, giusto? No, se non sbaglio, è un però lui in legge. Esatto, però cioè nel senso non pratica la professione di avvocato, però è sicuramente competente, stracompetente. È uno studioso, da quello che abbiamo capito, è uno studioso della legislazione degli Stati Uniti. E ha anche avuto a che fare, sì, con Amnesty International, sì, oppure sì, le, sì, poi ci spiegherà tutto, esatto. Sentirete tutto nell'intervista. Perfetto, questa è la premessa di questa intervista, non lunghissima, ma insomma da ascoltare con attenzione, che ci riporta insomma alla nostra vecchia missione, quella di ascoltare, imparare qualcosa da quello che ci è appunto nel mondo che ci circonda. E però prima ovviamente di partire con questa intervista andiamo ad ascoltare il secondo brano, che è Chris Roche Nothing But Shame. Asking for love, don't come around asking for a truce, 'cause you don't wanna hear it from me, and I don't wanna hear it from you. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame. Reasons to blame. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame myself. Don't come around thinking like you own this town. Don't come around wishing to be friends, 'cause you don't wanna hear it from me, and I don't wanna hear it from you. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame. Reasons to blame. You give me nothing but shame. You give me nothing but shame. You only give me reasons to blame. say, yeah, yeah, myself, myself, but say, yeah, yeah, myself, myself, but say, yeah, yeah. Allora, prego Michela, accomodati nella nostra oramai famigerata cabina del telefono. Bene, bentornati a Di Tutto un Podcast. Come avevamo già annunciato, siamo in collegamento con il dottor Claudio Giusti, membro del comitato specifico dell'Osservatorio sulla legalità e i diritti, e ha avuto l'onore di partecipare al primo congresso della sezione italiana di Amnesty International ed è stato uno dei fondatori della World Coalition Against the Death Penalty. Buonasera, dottor Claudio Giusti. Innanzitutto grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora, noi abbiamo avuto l'onore, diciamo così, di essere contattati da lei in merito comunque a un intervento che abbiamo fatto qui a Di Tutto un Podcast, una puntata che abbiamo fatto con il dottor Paolo Perini riguardo alla storia di Chico Forti. Lei aveva delle cose da dire e che ci ha espresso molto bene, che io la prego comunque di riassumerci di nuovo per tutti gli ascoltatori che comunque non hanno avuto modo di leggere lo scambio che c'è stato, e le lascio la piena parola perché ci fa piacere comunque avere tutti i punti di vista di ogni argomento. Allora, cominciamo col dire che questo caso di Enrico Chico Forti si presta a tutta una serie di considerazioni abbastanza sgradevoli, se vogliamo, su come funziona l'informazione in Italia. Non è tanto questione vostra, o è un problema di carattere generale. Abbiamo un'informazione non eccelsa che spesso e volentieri, per quanto riguarda i casi di cui mi occupo, io seguo la pena di morte americana e il diritto penale americano, si riempie di, non dico inesattezze, ma proprio sciocchezze, informazioni totalmente campate in aria. I commenti e le prese di posizione su Chico Forti sono in grandissima parte, per non dire quasi tutte, in parte assolutamente inventate e in parte sono distorsioni della realtà. Adesso non so quanto questo possa servire alla vicenda di Forti, sicuramente crea dei grossissimi problemi agli abolizionisti italiani, e soprattutto creerà dei problemi, come ho già fatto notare, in Florida, perché in Florida stanno tentando di salvare la pelle a un italo-americano che si chiama Anthony Farina. Negli Stati Uniti non abbiamo di fronte persone impreparate. Negli Stati Uniti i prosecutors, i distrattori e quant'altro, sono persone preparatissime e tirare fuori certe sciocchezze non solo non serve, ma può essere estremamente controproducente. D'accordo che adesso saranno ben pochi gli italiani che scriveranno o tenteranno di scrivere ai giornali americani o a qualche procuratore, a qualche giudice o a qualche uomo politico. Però, allora, innanzitutto io la prego, perché sicuramente molti di noi hanno comunque in mente le storie sia di Chico Forti che di Anthony Farina, però possiamo riassumere un po' la storia di Anthony Farina prima, possiamo fare un breve preambolo? Le va di, certo. Sì, di tornare un po' indietro? Per quel poco che ne so, Anthony Farina è un caso abbastanza tipico. Lui ha partecipato a una rapina insieme al fratello, il fratello più piccolo, sedicenne a quel tempo. Anthony Farina è un ritardato mentale, la mente criminale del duetto era il fratello minore. Questa rapina è finita malissimo perché c'è stato un morto e due feriti. Nel diritto americano questo si chiama felony murder, cioè un omicidio commesso nell'esecuzione di un altro crimine. Tutti quelli coinvolti nel felony murder sono normalmente considerati colpevoli allo stesso modo. Quindi, quando hanno fatto il processo, anche Anthony, che non aveva sparato nessuno, che non avrebbe voluto che nessuno morisse, è stato condannato a morte come il fratello minore. Uh-huh. Il fratello minore successivamente ha visto la condanna commutata, perché già prima che ci fosse una sentenza del 2005, perché questi fatti sono di più di 20 anni fa, la Florida aveva deciso che nessun minore sarebbe stato condannato più a morte. È dal 2005 che non ci sono più esecuzioni di minori negli Stati Uniti. Ecco, cosa succede? Succede che il minore, il fratello, ha la sentenza commutata, quest'altro no. Allora, il tentativo che viene fatto in Italia da due organizzazioni abolizioniste, Sant'Egidio e Nessuno Tocchi Caino, credo ci sia anche noi, è quella di ottenere la cittadinanza per Anthony Farina, perché tutti i figli e i nipoti di italiani possono avere la cittadinanza. Sulla base di questo, lavorare nell'appello federale che deve cominciare, mandare, fare un amicus curiae, approfittando appunto del fatto che possiamo farlo perché lui è un cittadino italiano, cioè lo diventerà tra breve. Florida, il suo caso è seguito però dalla signora Babcock, che è piuttosto conosciuta, e da un'organizzazione anglo-americana che si chiama The Tribe. Sono loro che tenteranno di convincere il giudice federale che Anthony non era in condizioni di commettere un omicidio capitale, perché non ci arrivava con la testa e perché era il fratello che gestiva tutto. Se la posizione di Farina non è stata già compromessa dagli appelli precedenti, cioè l'appello diretto statale e l'appello habeas corpus statale, c'è qualche speranza che questo appello, che è un habeas corpus federale, consenta a Farina di salvare la pelle. Però poi non uscirà mai più di prigione, perché la pena prevista per l'omicidio di primo grado, come lo chiamiamo noi, è il LWOP, Life Without Parole, la stessa condanna che sta scontando Chicco Forti, Enrico Chicco Forti, che invece si proclama innocente, mentre sulla colpevolezza di Anthony Farina, cioè sul fatto che lui abbia partecipato all'omicidio, non vi sono dubbi. Il tipo di dubbio che vogliamo introdurre è che lui fosse in grado di capire cosa succedeva, e quindi okay, diciamo che è tecnicamente non colpevole di un reato capitale. Tutto chiaro? Ok. Per Forti la situazione è completamente diversa. Sì. Perché lui dice di essere innocente. Andiamo avanti con Forti? Sì, perché io poi ero molto interessata ad una parte del lungo commento che lei ha fatto, però questa è una parentesi che le faccio, magari ci arriveremo dopo, la lascio parlare tranquillamente così. Adesso vi do qualche informazione di base. Sì. Il processo di Chicco Forti in America è stato un normalissimo processo americano. Non c'è nulla di strano, a parte la notevole lunghezza del processo. Ok, e quello è un punto, comunque è una cosa particolare. Sì, nel senso che i processi americani durano 2 o 3 giorni. Sì. E solo in qualche caso molto complesso si va avanti per settimane o addirittura mesi, ma sono molto rari. È raro proprio il processo negli Stati Uniti, perché le condanne in più del 95% dei casi, cioè la quasi totalità di queste condanne, viene ottenuta con il patteggiamento. niente processo, niente appello, accordo fra accusa e difesa, il processo non viene neanche aperto, e a quel punto la sentenza viene applicata. È questo che manda avanti la baracca, altrimenti non funzionerebbe nulla da noi. In più, i processi americani rarissimamente poi vengono portati in appello, e dei, diciamo, 100.000 processi che si fanno all'anno, sono fatti di norma davanti a una giuria che non deve motivare le sue decisioni, mentre i nostri giudici poi passano mesi a scrivere il perché e per come hanno condannato una persona o l'hanno dichiarata innocente. Quindi è un mondo completamente diverso dal nostro. Ok, poi c'è un altro aspetto, quello delle traduzioni degli atti processuali. Allora, gli italiani non sono bravissimi con le lingue, anche io ho qualche problema, però sì. Ho fatto addirittura un glossario della terminologia legale americana, che adesso dovrei rinnovare, perché quello che trovate su internet è abbastanza grosso, ma quello che sto preparando è enorme, perché ci sono tutta una serie di termini legali che sono completamente diversi dai nostri, perché i tipi di reato nelle fattispecie sono completamente diversi dalle nostre, i meccanismi mentali sono diversi dai nostri, e bisogna stare molto attenti perché sono tutti terreni minati. Per esempio, dunque, intanto è tutto molto complesso, ci sono 53 giurisdizioni negli Stati Uniti, no? 50 stati e due giurisdizioni federali, quella civile e quella militare. Poi certi termini che in un posto significano una cosa, in un altro posto sono, significano un'altra. Moltissimi casi, per esempio Banks, il nome Banks si può riferire a almeno 5 casi diversi con diverse sentenze della Corte Suprema. A volte ci sono stati più di un pronunciamento della Corte Suprema per la stessa persona, non so, McCleskey, Perry, eccetera. Altre volte lo stesso nome, per esempio Brady contro Maryland o Brady contro Stati Uniti, si riferisce a due casi completamente diversi. Per questo io dico che bisogna sempre stare attentissimi, perché per esempio nello stato di New York la Corte Suprema non si chiama Corte Suprema, ma bensì Court of Appeals, perché la New York Supreme Court è la normalissima corte di base che fa i normalissimi processi. Questo porta poi a degli equivoci molto divertenti per chi è nel settore. Ovviamente, a parte queste, come si dice, queste raffinatezze, se vogliamo, bisogna anche sapere di che cosa si parla. E c'è nel libro di Matassa, dedicato al caso Forti, c'è un clamoroso errore di traduzione che poi si trasforma in un clamoroso tentativo di spiegare l'inspiegabile, perché confonde the shooter, cioè chi ha commesso il delitto, chi ha sparato, l'esecutore materiale, con l'assassino, e quindi l'affermazione dell'accusa secondo cui lo Stato non deve provare che Chico Forti è stato lo sparatore per dimostrare che lui è colpevole, l'accusa non deve dimostrare che è stato lui fisicamente a sparare in testa alla vittima, ma deve solo dimostrare che faceva parte del complotto per ucciderla, diventa nella traduzione italiana: lo Stato non deve provare che Chico Forti sia l'assassino al fine di dimostrare che sia il colpevole. E questa è una cosa che è assolutamente priva di senso, ma su questo poi ci hanno, che tuttora ci scrivono, hanno fatto penso anche di peggio. Anche su internet, in buona parte, c'è sì. Questo sito di Albaria, sì. Che è strapieno di roba. Non solo c'è una parte notevole del libro, ma ci sono anche dei links molto interessanti su una trasmissione radio fatta nel 2001, tutta dedicata al caso Cuco Forti. Ci sono, sì, sto leggendo. Sbobinamenti di trasmissione, c'è un sacco di roba. Ci sono i link al famoso filmato che avrebbe inguaiato Forti, così dicono i suoi amici, il sorriso della Medusa, eccetera. Queste cose le trovate con facilità. Ecco, però sono anche le uniche cose che si trovano. Sì. Noi non sappiamo praticamente niente di quello che è successo al processo, perché gli atti del processo non sono stati pubblicati, non sono stati pubblicati cioè le richieste di appello, e sono state 6 a quanto sembra. Quindi di quello che è accaduto abbiamo solo la versione degli amici di Chicco, questo testo di Matassa, che sembra il giudice Matassa abbia potuto accedere almeno in parte ai documenti ufficiali, e poi qualche pezzino che si trova su internet di articoli di giornali americani del tempo, ma quasi nulla. Quindi stiamo giocando praticamente a mosca cieca. In compenso, gli amici di Chicco dicono cose che sono evidentemente fuori dal mondo, e quindi questo ci consente di capire che la faccenda è molto diversa da come ci viene prospettata. Per esempio, un punto fondamentale della difesa che viene fatta dagli amici di Forti è che lui sarebbe stato condannato sulla base di una sensazione. Questa storia viene ripetuta continuamente. Ecco, questo non è vero. Perché la giuria ha deciso che Chicco Forti era colpevole, no? E non si spiegare il perché, deve essere unanime. Una volta che ha detto che Chicco Forti è colpevole di un reato, che in questo caso è un murder of third degree, quello che noi chiamiamo omicidio di primo grado, la sentenza è obbligatoria. Non avendo la procura ha chiesto la pena di morte, la sentenza obbligatoria è l'ergastolo senza possibilità di rilascio anticipato. È un fatto automatico. Quindi, se il giudice ha detto qualcosa, questo era assolutamente irrilevante, e non credo che il giudice abbia detto quello che gli viene attribuito. In ogni caso, poteva anche ballare una tarantella, non ha alcun significato. Non esistono quindi prove scritte, cioè non esistono gli atti, quindi secondo... Gli atti ci sono, perché ci sono stati 6 tentativi di appello, quindi avvocati che se li sono... Sì, ma non sono stati resi pubblici. Ci sono sicuramente, però noi di un processo durato la bellezza di 24 giorni, che negli Stati Uniti è tantissimo, non abbiamo praticamente nulla. Abbiamo solo quello che scrive Matassa, che voi trovate poi su internet, sì. Quello che lui traduce della arringa finale dell'accusa. Ok, ma lei ha avuto modo di incontrare Matassa? No, assolutamente, o di comunque... nessuno. Ho avuto degli scambi di mail con... gente del gruppo Chicco, diciamo così, sì. Una telefonata di un amico di Chicco Forti, ma qualcosa che mi possa instillare il dubbio dell'innocenza di Chicco Forti non c'è. Da quello che si riesce a capire, Chicco Forti è assolutamente colpevole di quello che è successo. Le affermazioni che vengono fatte dai suoi amici sono completamente prive di sostanza o addirittura totalmente inventate. Andiamo avanti sulle invenzioni o... No, perché da un certo punto di vista, poi mi spiace anche doversi mettere in questa situazione, ma sinceramente mi sembrerebbe il momento che in Italia cominciava a raccontarci le cose come stanno, non a inventarci delle balle su tutto. Giusto? Sì, io in realtà sarei d'accordo con lei, nel senso che purtroppo non conosco bene questa storia, però cioè, è comunque abbastanza palese che ci sono molti, molti buchi, molte cose che non tornano, quindi non sono del tutto chiari come, come lei ci ha detto. Questo succede sempre nei casi di omicidio, eh? Sì. Pensate, non so, al caso in Italia, la Frenzoni, eccetera, ci sono sempre degli aspetti non chiarissimi, o almeno da quello che riusciamo a capire stando fuori, non avendo partecipato al processo, vediamo che ci sono delle cose che non riusciamo a capire. Sì, infatti. Anzi, nel caso di Forti, tenete anche presente una cosa: il sistema giudiziario americano, come ho detto, è completamente diverso dal nostro, soprattutto sì, perché chi decide non sono dei giudici professionisti, ma è una giuria. È una giuria, cioè sono. Infatti, lei ci ha fatto comunque un piccolo nel suo commento. Comunque, fa una differenza sostanziale, cioè ci chiede comunque di prestare attenzione alla differenza tra verdetto e sentenza. Sì, giusto? Ecco, questo è un altro problema. Ecco, noi in Italia siamo abituati che escono i giudici e leggono la sentenza. Negli Stati Uniti, la giuria normalmente non decide la sentenza, decide il verdetto, deve decidere colpevole o non colpevole. Adesso non entriamo nei dettagli delle lesser included offenses, altrimenti facciamo confusione. Una volta che, come in questo caso, ha deciso colpevole, di norma è il giudice che decide che sentenza applicare. Ma in tutta una serie di casi, pena di morte o queste, la sentenza è obbligatoria. Quindi il problema è stato risolto con il verdetto. In altri casi più complessi, in cui ci sono più capi di imputazione, la sentenza può essere una faccenda molto lunga che richiede parecchio tempo, in cui la difesa, l'accusa, inviano dei brief al giudice. Il giudice deve decidere quali pene applicare, perché ha in moltissimi casi una notevole possibilità di scelta, e poi anche tutta una serie di cose che per noi sono incomprensibili. Per esempio, c'è gente che negli Stati Uniti sta scontando diversi ergastoli consecutivi. Da noi non succede. Le sentenze possono essere di tanti anni per ogni capo di imputazione, e il giudice può decidere se farli scontare contemporaneamente o successivamente. Quindi, se hai quattro capi di imputazione che hanno dato 10 anni per ogni capo di imputazione, puoi cavartela con 10 anni oppure partene 40. Non so se sono stato chiaro. È stato chiarissimo. Sì, assolutamente. È un mondo completamente diverso dal nostro, e deve essere affrontato per quello che è. Non possiamo tentare, come fanno gli amici di Chico, di introdurre pezzi del diritto italiano nel diritto americano, che fra l'altro è anche diverso dalle altre giurisdizioni di common law, molto diverso dal diritto inglese, canadese, eccetera. Prego. Il diritto americano procedurale è lo scontro delle parti nel senso più chiaro del termine. Quando dicono ma non è stato consentito a Chico di parlare, non gli è stato consentito di controbattere, è assolutamente vero. Nessuno ha vietato niente a Chico Forti. L'accusa, per esempio, non può chiamarlo a testimoniare contro se stesso. Avrebbe dovuto farlo la difesa. Scusate, ma sarebbe stato un vero e proprio suicidio mettere una persona che ha raccontato tante balle nello stand e farlo poi massacrare dal procuratore. Per esempio, in diversi interventi si dice che gli accusatori di Chico Forti, cioè il padre della vittima, Anthony Pike, il proprietario dell'albergo, e questo famoso tedesco, Knock, non sarebbero, non gli sarebbe stata data la possibilità ai forti di controbattere. Però questi due non sono stati chiamati a deporre. Né il tedesco né il padre della vittima sono andati davanti alla giuria. Nessuno li ha chiamati. Se la difesa pensava che fosse importante chiamarli, doveva farlo allora. Dopo non è più possibile, perché il processo americano non ha un primo e un secondo grado, ha un primo grado e basta. Diciamo che c'è stata un po' di leggerezza anche da parte, come abbiamo già detto, non possiamo leggere tutti gli atti, però mi sembra di capire che comunque la difesa non sia stata poi così così eccellente. A difendere forti c'erano due avvocatoni, ma due grossi avvocati di Miami. Uno è Bierman, che è famosissimo, basta cercarlo su internet, e l'altro è questo Ira Lowy, che qualcuno crede sia una donna, invece è un uomo. Ma non sono avvocati da quattro soldi. Quindi, quando sento accusare delle più atroci nefandezze la difesa, mi chiedo da dove se lo tirino fuori. Perché il fatto di non aver chiamato, per esempio, Tito Forti a testimoniare è una cosa abbastanza normale che si fa nei processi americani, perché una volta che sei nello stand del testimone, non è come da noi che puoi rispondere, non rispondere, mentire. Sei carne da macello. Ti possono massacrare. E non dimentichiamo che Tito Forti non ha detto una bugia, ne ha detto una raffica. Detto in altre parole, per quanto sono riuscito a capire io, la giuria è stata convinta da questi semplicissimi fatti. Alle 6 di sera di quella famosa domenica, Chico Forti va a prendere la vittima dei Pike in aeroporto. E questo sparisce. Non se ne sa più nulla e 24 ore dopo viene trovato morto con due proiettili in testa. Non solo Chico Forti non ha un alibi e non è in grado di dimostrare nulla, ma subito comincia a dire a tutti, dalle 7:15 della sera in avanti, che questo dei Pike non è arrivato all'aeroporto. Lo dice alla moglie, lo dice al babbo di Pike, a Anthony Pike, lo dice al suo avvocato fiscalista, lo dice a tutti. Poi lo dice anche alla polizia. Adesso su questo viene da chiedersi cosa possa essere passato per la testa di Forti. Ma a una giuria cui si spiega che sei stato l'ultima persona a vederlo e che hai detto per i 3-4 giorni successivi che questo non era arrivato, una giuria americana, no? Dopo non c'è verso di spiegargli qualunque altra cosa. Si sono, a quanto ho capito io, convinti immediatamente che lui era colpevole. Poi l'accusa gli ha fornito un motivo valido, un movente, ha aggiunto la famosa prova della sabbia, e a quel punto Chico Forti era cucinato e stracucinato. Non so cosa avrebbe potuto fare la difesa, visto che poi tutte quelle affermazioni di alibi sono state fatte a posteriori. Ah, tra l'altro, Chico Forti, di questo i suoi difensori non ne parlano mai, ha anche falsificato dei documenti nei 2 anni circa che è stato a piede libero per far costruirsi un alibi a posteriori. E questo non deve essere piaciuto molto alla giuria. No. Direi una mossa poco furba, tra le tante, una delle tante mosse poco furbe. Dottor Giusti, io la ringrazio veramente molto per essere intervenuto e volevo soltanto, prima di finire, come abbiamo detto, lei è membro del comitato scientifico dell'Osservatorio sulla legalità e i diritti, e avevo una domanda più personale, nel senso che è una curiosità, ci può dire che cosa di che cosa si occupa questo comitato? Ci vuole spiegare un po' lei di che cosa si occupa? Allora, questa partecipazione è un fatto abbastanza onorifico. Il Comitato per la Legalità e i Diritti è un gruppo di che fornisce assistenza legale in Italia e ha tutta una serie di sue attività per la protezione di gente che chiede aiuto per problemi di carattere legale. A questa attività, cui io non partecipo perché non sono un avvocato, aggiungono poi tutta una discreta quantità di attività di carattere legale più generale e organizzano per esempio conferenze. Io ne vidi una bellissima alcuni anni fa a Ravenna, a cui partecipavano il procuratore di Ravenna, avvocati di quella città, un sacco di gente, e Gerardo Colombo, che a quel tempo era ancora in magistratura. Più di recente ne hanno fatto una qui a Forlì con il giudice, quell'altro, non so se il nome pulito, quello che è ancora in magistratura, Pier Camillo Davigo. Mm-hmm. E io ho avuto la fortuna di partecipare insieme al dottor Davigo a questo scambio di informazioni. Io mi occupavo della giustizia americana, ovviamente, lui di quella italiana. Ecco, quindi diciamo che io resto un po' ai margini dell'attività, perché io continuo a occuparmi di diritto penale americano e appunto faccio attività di informazione. Scrivo delle cose ogni tanto che trovate sia nel loro sito che nel mio sito e cerco di trasformare questo incredibile guazzabuglio che è il diritto americano in qualcosa che sia comprensibile a noi poveri esseri umani. D'accordo? Anche in favore di un'altra attività, ovvero la World Coalition Against the Death Penalty. Diciamo che o è una cosa che viene bellissima occasione che è un mandato un po' sprecata. Perché la World Coalition non è che abbia combinato moltissimo in questi ultimi anni. Quando ci siamo trovati nel 2002 a Roma, e c'era un sacco di gente, c'erano i giapponesi, Amnesty International e tante altre, si sperava che ci sarebbero avvenute più cose. In realtà ci sono stati due congressi dopo, anzi tre congressi molto interessanti, state cose veramente favolose, solo che non sono riusciti a farsi finanziare dalla comunità europea e non so come diavolo siano riusciti, non ce l'abbiano fatto, perché la comunità europea, sia l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa, sono contrarissimi alla pena di morte, arrivano a finanziare l'American Bar Association, che è un'organizzazione potentissima e grandissima degli avvocati americani, probabilmente la più grande, che sta facendo dei rapporti Stato per Stato, infatti mi sembra una decina, rapporti che ovviamente costano moltissimo perché richiedono il lavoro di molte persone particolarmente specializzate, vengono fuori dei malloppi di 500-600 pagine e hanno avuto però poi un fortissimo impatto negli Stati Uniti, qua nessuno li ha letti ovviamente, e siccome costano tanto l'Unione Europea gli ha dato un contributo. Purtroppo la World Coalition non è entrata in questo genere di mentalità. Avremmo avuto bisogno non solo di fare dei rapporti, ma soprattutto di tradurre e pubblicare in italiano e in altre lingue le tante cose che vengono prodotte quotidianamente sulla pena di morte negli Stati Uniti e nel mondo. Posso dirle che comunque c'è sempre tempo per continuare, insomma, dopo un curriculum tale, secondo me. Sì, mi dica. Tenga presente che io ho già 61 anni. Ancora c'è tutto il tempo. Le cose buone si fanno dai 40 ai 50. Ha ragione, allora ci prepariamo noi. E non sarebbe male. ci prepariamo, ci proveremo. Allora, io, dottor Giusti, la ringrazio di nuovo. Sono veramente. Sì, sì, sì, sono veramente contenta di averla potuta conoscere, diciamo così, in uno scambio quasi dal vivo. Le rinnovo comunque il nostro invito a tornare qualsiasi voglia, qualsiasi momento lei abbia voglia comunque di tornare a parlare con noi, magari ci fossero novità. Noi siamo sempre qui, la ringraziamo e la saluto tantissimo. E ci risentiamo presto. Certo. Mi raccomando, se voi avete qualcosa da chiedere, se vengono delle domande, se vengono dei dubbi, disponibilissimo a scriverle. Anche ai nostri ascoltatori, magari ci rinnovi i suoi, mi dica, magari dica i suoi contatti, così i nostri ascoltatori possono, noi magari li scriveremo sicuramente anche sulle note, non i suoi contatti telefonici, ma la sua mail sicuramente. Guardi, basta cercare Claudio Giusti su Google, Claudio Giusti End, pena di morte, mi trovate, non dico migliaia di volte, ma quasi. Ok, abbiamo un sito, adesso non è sì, proprio accesso, si chiama Estrange Fruit, come la famosa canzone, e lì sì, trovate buona parte di quello che ho scritto negli ultimi anni. D'accordo? Ok, no, noi metteremo tutto nei link della puntata. Benissimo. E speriamo di sentirci nuovamente. A nostra disposizione, come già detto. Grazie. NX, My Girl, My Girl, My Girl, My Girl, certo, veramente io potrei no fare. No thanks, forse è. No thanks? No TNX. Io mi attengo a quello che il regista mi ha scritto sul. Sul mio. Sai, anche in inglese, anche in Inghilterra e in America c'è il bimbo Ah, quindi ok. My Girl è il brano che avete appena ascoltato, certo. Sicuramente non potrò fare mai lo speaker radiofonico musicale, però insomma, non è detto, lo dimostro anche su Calavera Caffè, facciamo un po' di pubblicità, no? Perché quando io saluto tutte le persone sbaglio sempre i cognomi, tutti, non c'è basta bu. No, cioè commento bravissimi finale. Ragazzi di Calavera Caffè, però cioè, ma però non vi siete stufati di trovare sto Simone Pizzi dovunque? Io lo eliminerei, Commento finale a questa intervista. Allora, l'avete ascoltata? Avete ascoltato la posizione di Claudio Giusti? E allora, perché abbiamo fatto anche un po' di pausa? Io ammetto un mio errore, forse un errore di presunzione, che mia moglie ogni tanto mi diceva, però io dicevo, ma no, ma che dici? In realtà, quando tu fai una trasmissione come questa e non sei un professionista, tendi a voler dire cose che gli altri non vogliono dire o che non dicono. Ciò non significa il fatto che devi portare avanti la tua tesi e costruire le trasmissioni sulla base delle tue tesi. Noi in realtà avremmo dovuto parlare di cose che non sapevamo in maniera, così come abbiamo sempre fatto, in maniera distaccata, nel senso con l'interesse, la passione, poi ovviamente esprimendo anche le nostre opinioni. Invece secondo me con Chico Forte ho un po' avuto un po' la sensazione che siamo andati là perché siccome che a noi un po' gli americani ci stanno sul cazzo ossia alcune cose che riguardano il loro sistema non ci piacciono, abbiamo utilizzato o io ho utilizzato praticamente un po' a pretesto questa questione di Chico Forte per contestare. Beh, anche... c'è anche da dire una cosa che forse sicuramente è stata già detta precedentemente nella puntata con Paolo Perini. E comunque noi abbiamo chiesto, oltre a Paolo Perini che ci ha aiutato, che è trentino, che quindi comunque in qualche modo che salutiamo conosce anche. La realtà, che salutiamo e ringraziamo perché è sempre una grandissima spalla per noi, noi abbiamo interpellato persone molto più vicine a lui e persone che hanno parlato in televisione, che hanno parlato... Ah sì, sì, sì, questo è vero. E non ci hanno proprio filato di pezza. Ma non è tanto insomma il problema di chi è intervenuto, perché quello l'abbiamo già detto, sì, cioè sì. Noi abbiamo chiamato persone vicine a Chico Forte, anche parenti, che però, sapendo che non avevamo televisione, non sono venute. Poi dopo che noi abbiamo detto, che avremmo detto questa cosa in trasmissione, loro, no, no, vabbè, ma possiamo pure organizzare. No, basta, oramai detto no, chi se ne frega. La cosa è comunque ritornare, per di tutto un podcast, alla sua... al fascino iniziale, quello del guardare intorno a noi con gli occhi sì. curiosi delle cose e esprimere comunque le nostre considerazioni, ma non fare che le nostre considerazioni diventino l'elemento primario della trasmissione. Per quanto riguarda invece questa intervista che tu hai fatto, io dico la mia idea, poi tu dici la tua, che sicuramente stiamo parlando di una persona competente, sono abbastanza convinto che lui dica cose estremamente... Non comincia col brottolio, perché no. Te cancelliamo, capito? No, dicevo, sono abbastanza convinto che lui dica cose assolutamente sensate e soprattutto mi è piaciuto il passaggio quando lui dice, sai, non possiamo approcciarci, andare là e dire, ah, è innocente perché per partigianeria, perché altrimenti tutto il lavoro che fanno queste associazioni contro la pena di morte o roba, cioè, insomma, alla fine ne verrebbero anche danneggiate a livello certo. di immagine, no? Però a me quello che un po' mi stranisce è questa assoluta certezza che il sistema americano sia vabbè, comunque vabbè, perché tu sei imperfetti, cioè nel senso che sia comunque incontestabile il fatto, già in America solo il 3% 4% dei casi vanno in tribunale, la resto... realtà è che tu se hai ascoltato bene l'intervista, io diciamo che non mi sono messa da nessuna parte okay. perché tendenzialmente non sto da nessuna parte, però sto un pochettino dalla parte del signor Giusti, ma perché è sensato quello che dice, ecco. Non abbiamo una sentenza, non abbiamo tutto quello che è stato detto, non è riportato e tradotto, okay. Quindi non abbiamo una chiara visione dei fatti. Però questo vale sia da una parte che dall'altra. Nel assolutamente senso che sì. Vale per l'innocenza tanto quanto per la sì, colpevolezza. Sì, sì, sì, questo okay. è vero. Ricordiamo, sì. E quindi affermare con certezza che il sistema americano è un sistema eccelso. Vabbè, già, ricordiamoci sempre. Chi, cioè, tipo, che ne so, quanti ce ne sono stati, no? Sacco e Vanzetti, roba, già, so. Quindi, non è che non ci stanno i casi, insomma. Quindi, Però ci stanno anche casi. Ci stanno anche casi come quello di cui abbiamo parlato col dottor Giusti. Esatto. Come quello di Farina, che comunque. Sì, ma è sconcertante pure il fatto che una persona ritardata sia in carcere. Indirizzata verso magari la sedia elettrica, perché comunque a parte perché comunque c'è questa logica della legge americana che dice che esistono tipi di reato, anche tu soltanto il fatto che hai partecipato o hai contribuito all'interno di un tipo di azione sei complice o addirittura reo di quel tipo di reato lì, che insomma è un po', cioè secondo il nostro sistema, no, di codice, insomma è un po' diverso come tipo di concezione. Sono americani, quindi fanno un po' quello che gli pare. Comunque, interessantissima intervista. Senti di dare un commento finale, di chiudere. No, io sono contenta di aver comunque chiuso la discussione in questo modo, cioè di aver completato l'esame dalla parte degli innocentisti e dalla parte dei colpevolisti, perché in realtà noi non stiamo da nessuna, almeno io mi sento di dire che non sto assolutamente da nessuna delle due parti. No, umanamente, anche se, come abbiamo detto l'altra volta, secondo noi Chicoforte le cazzate le ha fatte, probabilmente in qualche maniera non può assolutamente dire di essere in assoluto innocente, però umanamente chiaramente, nel senso, ci sono tanti casi nei quali gli stati intervengono. In questo caso, questo è l'unica cosa che io possiamo dire, è che lui sta completamente abbandonato cioè, da questo punto di vista. Per il resto? Per il resto posso dire che non sono d'accordo con te. No, puoi dirlo. E se no che il gusto non sta. Prendo la punizione, insomma, perché evidentemente sei stato abbandonato. Sei stato abbandonato, forse un motivo c'è. Però comunque lasciamo a voi, ascoltatori, il modo, il tempo di elaborare, insomma, tutto quello che avete ascoltato, e di farvi, lasciamo a voi anche il compito di farvi un'idea, insomma, perché è giusto che voi siate gli ultimi, diciamo così, siete i destinatari di questa riflessione e i giudici anche delle vostre stesse idee, quindi dopo che vi siete e fatti, e poi insomma siamo curiosi di sapere, quindi continuate a scrivere e infatti commentate. Quindi abbiamo sentito una campana, abbiamo sentito l'altra, ecco perché si chiama diritto di replica questo episodio, nel mentre che sta la morte di mia moglie. Respect Your Mom è la band, Adore è la canzone. Tu sei sicuro? Sì. Vabbè, ascoltatela. Forgive me, forgive me, you taught me. I don't. Allora, su segnalazione molto molto tempo fa, ma purtroppo come abbiamo detto per tanto tempo non siamo andati in linea, quindi non abbiamo potuto farlo prima, su segnalazione di Michele Schuren mi è arrivato un link che era un link relativo alla locanda dei girasoli. Chi conosce questa attività a Roma sa che stiamo parlando di un ristorante che è completamente gestito da ragazzi down e purtroppo non ha mai navigato in grandissime belle acque, nel senso che purtroppo si è sempre trovato in difficoltà dal punto di vista economico e appare ancora oggi sul sito, se uno si va sul link che metteremo nelle note dell'episodio, appare questo messaggio che è "purtroppo ci disiamo", che adesso Michela vi legge, poi magari proviamo a buttarla lì un'idea che si potrebbe fare insieme. Allora, cari amici, siamo davvero in grosse difficoltà. La crisi ci sta investendo con tutta la sua forza, investe noi e il progetto in cui crediamo da anni. Purtroppo siamo davvero ad un passo dal punto di non ritorno e quindi vi chiediamo uno sforzo per fare in modo che i nostri ragazzi possano continuare a lavorare e non prendere un grosso spazio di vita integrazione che la locanda dei girasoli rappresenta. Vi chiediamo, per chi può e vuole, di donare un contributo al conto IBAN e o di venirci a trovare per una buona cena o una buona pizza. Visto il momento di difficoltà economiche, la locanda dei girasoli rimarrà chiusa il lunedì. Gli altri giorni sarà aperto per la cena. Raggiungerci è molto semplice. Il ristorante si trova al Quadraro, in via dei Sulpici 117H. Ci si arriva anche in metropolitana, basta scendere alla fermata Numidio Quadrato e in pochi minuti si raggiunge la locanda. Mangiare alla locanda dei girasoli è, in primo luogo, un piacere che si unisce ad un atto di solidarietà nei confronti di 4 giovani con sindrome di Down che stanno affrontando un percorso di inserimento lavorativo. È motivo di orgoglio per il quartiere Quadraro, altresì detto il nido di vespe, la rappresentanza di un'esperienza conosciuta e apprezzata in tutta l'Italia, quale esempio di imprenditoria sociale nato dall'impegno intrapreso da qualche anno dalle famiglie dei ragazzi, diventate poi la cooperativa I Girasoli e dalle cooperative Cecilia e Al Parco, che nel tempo si sono unite in questa avventura solidale. Prenota subito una cena alla locanda. Per info e prenotazioni 06 7610 194. Ora, il quartiere Quadraro è un quartiere di Roma abbastanza popolare, la zona di Cinecittà, insomma, sulla Tuscolana. Chi conosce la zona sa che in realtà, ecco, realtà come queste, in quartieri come quelli un po' particolari, in realtà aiuta anche il quartiere stesso, in qualche maniera, lo riqualifica, lo aiuta. Chi non è di Roma, l'unica cosa che possiamo dire è se comunque avete comunque la sensibilità di voler partecipare in qualche maniera, l'IBAN che ha detto Michela prima lo rimetteremo. Ho detto conto IBAN ma non ho letto le cifre, le scriviamo sì, okay, sul lo sito. Scriviamo sul sito, le mettiamo sulle note dell'episodio, magari leggile, forse che comunque possono sempre essere utili. IT96R056 9603 22 6 volte 0 3389 X92. Ok, poi comunque se siete comunque interessati ci scrivete una mail e ve lo rimandiamo, e comunque in ogni caso stiamo parlando di un link che metteremo nelle note dell'episodio, ma è anche abbastanza semplice perché è www.lalocandadeigirasoli.it, tutto attaccato, quindi andate lì e la prima cosa che appare è purtroppo questo messaggio di aiuto. Per quelli che sono invece di Roma potremmo, come disse a suo tempo proprio Michele Schuren, che è sempre stato un nostro ascoltatore abbastanza attento, organizzare una bella pizza. Ma perché no? Ma anche chi non è di Roma e vuole venire. Vabbè, è chiaro che noi lo diciamo. Se ci mandate. Cioè, abbiamo un divano letto, potete dormire in 5-6 là sopra, insomma. Sì, il gatto vi si mangia. E Ceppa vi mangerà, ovviamente. A parte questo, comunque, noi proporremo con Michela, ci metteremo ad organizzare una cena, vedremo, chiameremo alcuni di voi, o contatteremo alcuni di voi che già sappiamo che sono più o meno interessati. Gli altri che vorranno unirsi potranno farlo, insomma, nei prossimi giorni, scrivendo mandandoci una mail, un Twitter o scrivendolo sulla pagina di Tutto un Podcast, e organizzeremo, prenoteremo e faremo questa serata tutti quanti insieme. Magari che poi... a settembre, primi di settembre, prima di ripartire con... No, vediamo, se riusciamo a farlo anche prima, forse, perché penso che forse a settembre magari non ci arriviamo. Ma la gente va in vacanza? Ma sì, ma stiamo parlando una settimana, fra due settimane, dai, su, non è che stiamo parlando... Dove andate in vacanza? Che fino a agosto dovete lavorare, dovremo lavorare tutta la vita fino a 70 anni e morire di lavoro, quindi... Ora, sembri... Sono vecchio proprio, guarda! Va bene, allora andiamo avanti, ricordiamo www.lalocandadeigirasoli.it, ragazzi, questa è una cosa carina, cerchiamo di fare qualcosa di positivo e andiamo al brano, sempre che Michela ovviamente riesca a sopravvivere. Non morirò, tranquillo. Non morirai. Allora, ascoltiamo i Sunday Chocolate Club con The Moment You Fall. Let you go. ancora parliamo di una onlus, ancora parliamo di un'associazione, perché voi non lo sapete, ma io veramente avrei, tempo fa, se questa trasmissione fosse andata in linea tempo fa, avrei esordito con buona gallina a tutti quanti. Perché? Perché mia moglie, nelle sue stravaganze, nelle sue originalità, che poi tra l'altro sono meritevoli, però poi uno comunque una risata ce la fa sopra, ha regalato a Natale galline a tutti quanti. Uno dice, detto così, dice che andava in giro a regalare galline. In realtà non era proprio così. Beh, in tempi di crisi. In tempi di crisi non si butta mai niente, perché una gallina la butti dentro la pentola e ci fai il brodo fino a Natale successivo. Però detto questo, stiamo parlando di una onlus, la CHAI, giusto? Centro Italiano Aiuti all'Infanzia. Michela, magari dacci qualche delucidazione, allora, e spiegaci poi dopo successivamente anche l'iniziativa che tu hai fatto. Allora, il CHAI è un centro di aiuti all'infanzia, ovvero Centro Italiano di Aiuti all'Infanzia, è una ONG apartitica e non confessionale, che dal 1968 si batte per promuovere il riconoscimento del bambino come persona e difenderne ovunque i diritti fondamentali alla vita, alla salute, alla famiglia, all'educazione, al gioco e all'innocenza. I valori condivisi sono i seguenti. Il CHAI sta sempre dalla parte del bambino, è laica e pluralista, considera le differenze un valore, ritiene che tutte le persone abbiano uguale dignità e uguali diritti, è contro la guerra e ogni tipo di violenza, è rigorosa nell'applicazione dei propri valori e punta all'eccellenza nella realizzazione della propria mission. Un po' come il PN, insomma. Sì, sì, uguale, identica. No, è vero, è vero. Sta scritto uno statuto di PN. Vai, vai. E, allora, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco di onlus e enti di volontariato scelti dai contribuenti nel 2011 con il 5 per 1000. CHAI ha ricevuto 246.245 euro. Non nel 2011, ma nel 2012 ha ricevuto anche i nostri soldi, perché noi abbiamo deciso Non con il 5 per 1000, però. No, non con il 5 per 1000. Abbiamo deciso tramite, diciamo così, questa bellissima idea che hanno avuto di devolvere i soldi per i regali di Natale a parenti e amici, eccetera, eccetera, eccetera, fatti magari anche con un budget molto ridotto, perché considerate che noi avevamo un budget di 7-8 euro a coppia tra cugini e cose varie, quindi molto piccoli. Noi siamo poveri. No, perché comunque siamo tanti e quindi... E siamo poveri. Siamo tanti e abbiamo deciso di non aumentare il budget in modo che nessuno di noi si trovasse in difficoltà. Trovasse troppo povero. Povero. E con 8 euro praticamente puoi praticamente devolvere questi soldi per acquistare una gallina che andrà praticamente ad una famiglia in Africa. Non è solo una gallina, però. Cioè, no, abbiamo fatto diversi pacchetti. Tu puoi scegliere, puoi andare anche con 50 euro, 200 euro, tutto quello che vuoi. Noi siamo arrivati con i pacchetti fino, mi sembra, ai 50 euro, per cui abbiamo pagato uno stipendio di un insegnante in un villaggio in Burkina Faso. Quindi insomma abbiamo contribuito a nome della persona a cui viene fatto il regalo a pagare questo stipendio a questo insegnante. Con 25 euro, 30 euro più o meno abbiamo acquistato due pacchetti completi, con 60 euro, quindi 30 euro ognuno, due pacchetti completi di kit scolastici per ragazzi che comunque devono affrontare l'anno scolastico. E poi le galline. Che oramai erano diventate cose. E le mucche, sì. Le mucche. Che erano diventate una cosa particolare. Io sì. Posso dire una cosa, sì. Lo dico a favore di Michela perché l'idea è stata carina. Poi dopo, sempre la morte è in studio con noi. Perché in realtà io l'ho un po' presa in giro. E l'ho presa in giro però dicendo, sappi che molti non apprezzeranno, no? Perché poi alla fine è un po' questo il discorso. Quando arriva Natale, sì, vabbè, siamo tutti più buoni, però al succo tutti vogliono un regalino, anche il più stupido, no? Trovarsi di fronte a questa cosa, non tutti ovviamente sanno apprezzare una cosa del genere, però poi dopo se tu ci rifletti a posteriori dici, chi se ne frega, perché io comunque invece di averti comprato una cosa inutile, per la quale ho speso dei soldi inutilmente, ho fatto una cosa buona, che a te piaccia o non piaccia. Se a te non piace, la pochezza è la tua, non è certo la nostra. Assolutamente. Veramente è stata... Anche abbiamo preso anche dei vasi di terracotta, quelli che servono quanta per mettere l'acqua. Quanta roba ha preso, però basta però, eh. Per mettere l'acqua nei, prendere l'acqua nei pozzi. Perfetto. Sì. Vabbè, comunque se andate sul sito c'è una scelta grandissima, però le cose più, più simpatiche insomma sono quelle: la gallina, la mucca, l'asinello per il villaggio, che comunque fanno molto comodo a, alle persone che vivono in questi villaggi, insomma, aiutano molte famiglie e anche solo per le uova tutti i giorni della gallina, insomma, è già qualcosa. No, è già no, un ma scherzi, sono risorse che tu, no, perché tante volte dicono, ma vengono a fare qua, aiutiamoli al paese loro, e poi nessuno lo fa, no? Perché poi dopo è quello il discorso. www.chai.it è il sito, andate, studiate, elaborate e vedete in che maniera potete contribuire. Ci sono poi, non so se queste iniziative particolari le fanno solo durante le feste o se è possibile, no, le farlo fanno durante sempre, insomma. Ok, detto questo, andiamo all'ultimo brano della trasmissione. Ci sentiamo fra pochissimo per i saluti finali. Zed Kill Mind Slayer. Non ce la farò mai. Echoes of Leviathan. E brava Michela, ce l'hai fatta a portare a termine questo nuovo episodio di Tutto un Podcast. Con la morte. Con la morte, con la tosse, con tutto quello che ti pare. Questo di Tutto un Podcast 502, diritto di replica. Che è iniziato sempre con la frase di Pertini. Di Pertini, chiaro. Sì. Abbiamo eliminato per ora Viva l'Italia, ma poi magari, detto, a settembre rielaboreremo anche magari un piccolo format, ci inventeremo qualcosa di anche di diverso. Sì, perché ricordate, tanto c'è tanto da essere contenti. Di Viva l'Italiare, insomma. Beh, intanto abbiamo mandato a casa Berlusconi, anche se... Ma che abbiamo detto? Anche se è, poi uscito, è uscito dalla porta, è rientrato da finestra. Grazie al nostro benamato PD, mi raccomando, continuiamo così. Continuate, parleremo anche di politica, continueremo a parlare di tutto quello di cui abbiamo sempre parlato. Vi rimando a fra un paio di settimane circa, dove ascolteremo un nuovo episodio di Tutto un Podcast, un episodio speciale, dove ovviamente tutta il format classico di Tutto un Podcast sarà completamente ribaltato, proprio perché racconteremo della storia di un'iniziativa che, alla quale siamo stati invitati circa un anno e mezzo fa, però che insomma c'è rimasto tutto il materiale che abbiamo raccolto, c'è un video che abbiamo realizzato anche grazie a Alex Raccuglia, ed è un'iniziativa sull'ospitalità che insomma ci ha fatto veramente piacere, insomma, aver, giusto? Assolutamente. Ce la facciamo finalmente uscire con questa puntata. Io la faccio un attimo appunto interrogativo, dice, ma di che parla questa? Invece poi... No, sì, poi sì, dopo sì, ha realizzato, chiaramente. Sì, sì. Perché noi non ci parliamo prima della trasmissione. No, no. www.ditutounpodcast con la U. wordpress.com, di tutto un podcast @gmail.com e di tutto un podcast sempre con la su Twitter, e invece su Facebook tranquillamente andate a cercare di tutto un podcast. Michela, ciao. Ciao a tutti ragazzi, mi raccomando, e divertiteci, scriveteci, divertitevi, godetevi la vita e fate all'amore, fate tanto tanto tanto amore. Ciao, ciao.